Esther, la regina che rischia la vita per il popolo. La storia della regina Esther è notevole, vi è in essa un'atmosfera fiabesca da Mille e una notte, unita all'odore bruciante delle camere a gas di Hitler, mentre il nome di Dio non appare neanche una volta in questo libro, la sua presenza è evidenziata in ogni pagina. Esther appare sulla scena. Dopo il tracollo dell'altra donna, la regina Vashti, moglie del re di Persia Assuero, che era immensamente ricco e regnava su 127 province, dall'India all'Etiopia, nel 500 a.C. Il suo palazzo invernale, situato nella città di Susa, quasi 320 chilometri, a est di Babilonia, aveva i pavimenti ed i pilastri di marmo, questi ultimi drappeggiati con tende bianche, verdi e blu, legate con cordicelle di lino fino. La famiglia reale ed i suoi ospiti si coricavano su divani d'oro e d'argento. Durante le feste bevevano in vasi d'oro e neanche uno di essi assomigliava all'altro. Esther era una bellissima giovane donna ed era riuscita a conquistare il cuore di tutto il casato reale. Non era persiana, era un'orfana ebrea allevata dallo zio Mardocheo, esule da Gerusalemme. Egli si curava di lei come avrebbe fatto un padre, ed essa gli ubbidiva come una figlia, benché fosse regina. Mardocheo, che serviva la corte reale, era odiato da Haman, un amalechita. Haman era brillante, ambizioso e di brutte abitudini. Non risparmiava nessuno, però il re lo onorava e ordinò a tutti i servi della sua corte reale di inchinarsi davanti a lui. Ma Mardocheo si rifiutò di eseguire un tale ordine. Poiché era ebreo, l'unica persona davanti alla quale si inchinava era Dio. Haman fu tanto amareggiato da questo rifiuto che decise di uccidere Mardocheo e tutti gli altri ebrei del grande impero persiano. Egli concepì un piano sottile e, a parer suo, infallibile per far sì che nessun ebreo scampasse. Tutti sarebbero caduti nella rete che gli aveva teso. L'annichilimento, cioè lo sterminio totale degli ebrei, il popolo di Dio, fu annunciato. La firma del re permetteva ad Haman di ripulire il globo, una volta per sempre, dagli ebrei. I corrieri reali presero gli animali più veloci e si precipitarono in ogni angolo dell'impero per annunciare la calamità imminente. I giudei erano terrorizzati. In quel tempo Esther era sposata da 5 anni. Su richiesta di Mardocheo aveva taciuto di essere ebrea, ma egli la teneva informata tutti i giorni della situazione. Ora, in vista dell'estinzione del suo popolo, Mardocheo si rendeva conto che l'unica soluzione stava nell'intervento di Esther. «Va da tuo marito il re e chiedigli l'aiuto per salvare il tuo popolo», egli le ordinò. «Il tuo popolo». Ciò dunque significava rivelare la sua origine ebrea. Come avrebbe reagito il re? Si sarebbe sentito ingannato da lei? Odiava egli la sua razza al pari di Haman e molti altri? C'era un altro ostacolo. A nessuno era permesso presentarsi al re senza essere chiamato, neanche alla regina. Fare ciò significava rischiare la vita. Esther non aveva nessuna garanzia che egli l'amasse come prima. Forse un'altra donna aveva preso il suo posto. Disse a Mardocheo di non essere stata chiamata alla presenza del re ormai già da 30 giorni. Ma egli non cedette e le disse che era lei l'unica in grado di intervenire. Non ti mettere in mente che tu soltanto scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re, le disse. Ogni ebreo morirà, i giovani, i ragazzi e gli uomini. Dai capelli grigi, nessuna donna, nessun bambino sarà risparmiato, egli disse. Se tu oggi taci, allora soccorso e liberazione sorgeranno per gli ebrei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Chissà se non sei pervenuta ad essere regina appunto per un tempo come questo. L'espressione da un'altra parte di Mardocheo ci attesta che stava pensando all'Eterno. Dio non aveva permesso questo sterminio impudente della nazione ebrea. Fin dall'antichità egli aveva promesso che il Messia sarebbe venuto attraverso questo popolo. Haman non avrebbe potuto impedire ciò, né poteva farlo Satana. Benché il bisogno della liberazione fosse immediato, la fiducia di Mardocheo nell'Eterno era solida. Ma Dio era pronto al contrattacco. Non avrebbe salvato il suo popolo per mezzo di un miracolo, come in un intervento soprannaturale, né per mezzo di angeli, ma per mezzo di una debole donna. Il futuro del popolo di Dio era appeso a quel filo sottile. Il progetto avrebbe avuto successo. La regina avrebbe cooperato con il piano di Dio o avrebbe fallito. Dio sta cercando uno strumento, Esther, un essere umano. Sei disposta a dare la tua vita? Egli ti ha posto in questa posizione strategica molto tempo prima, perché sapeva che ci sarebbe stata questa catastrofe. Tu sei la soluzione di Dio. Esther non ricevette il messaggio di Dio attraverso le parole imponenti di un profeta mandato a dirle così dice il Signore. Non ricevette una visione celeste. Fu guidata dalle parole di un parente. La guida di Dio non avrebbe potuto essere meno spettacolare. Eppure, essa accettò le parole di Mardocheo come provenienti da Dio stesso. La giovane Esther si era sempre mostrata così dolce, tuttavia, in questa occasione mostrò di possedere la fibra degli eroi. Questa situazione critica rivelò quale fosse la potenza della sua vita, Dio. Essa fu disposta a sottomettere la sua vita ai piani di Dio. Desiderava fare la sua volontà. Riunisci tutti gli ebrei di Susa, disse Esther a Mardocheo, e ingiungi loro di digiunare con me e con le mie serve per 3 giorni e 3 notti. Identificava pubblicamente se stessa con il suo popolo, disponendo che si privassero del cibo e pregassero. Essa si rendeva conto di essere una donna debole e di non essere in grado di offrire aiuto da se stessa. L'aiuto poteva venire solo dal Signore, dal Dio di Israele. Perciò essa programmò di assediare tramite la preghiera, per 3 giorni e 3 notti, il trono celeste. Esther era profondamente cosciente di avere bisogno della guida di Dio. Voleva essere sicura che quanto richiesto le fosse dal Signore. Sapeva che Dio si sarebbe rivelato a lei nella preghiera, aveva bisogno di saggezza e di coraggio per agire nel modo giusto. A chi avrebbe dovuto chiedere consiglio, se non a colui che è la fonte di tutta la saggezza e che la distribuisce in risposta alla preghiera? Poi, nonostante la legge disse, andrò dal re e se io debbo perire, che io perisca. Aveva bruciato i ponti dietro di sé. Questa giovane donna era disposta a rischiare posizione, vita e futuro per il suo popolo. Trascorsi i giorni di preghiera, Esther indossò la veste regale e comparve davanti al re, che apparentemente era impegnato negli affari del regno. Quando vide Esther, il suo cuore fu toccato e gli stese verso di lei lo scettro d'oro come prova che la sua vita era salva. Il re chiese: «Qual è la tua richiesta, regina Esther? Essa ti sarà concessa». La prima parte della preghiera era stata esaudita, la vita le era stata risparmiata e Dio aveva aperto uno spiraglio per la salvezza del suo popolo. Essa non aveva pregato invano per avere saggezza. Infatti intuì che quello non era il tempo né il luogo per fare la sua richiesta. La sua intuizione in questa situazione rivela la sua saggezza e capacità nel controllare le emozioni e nell'evitare di prendere decisioni frettolose. Era anche una donna pratica e si rendeva conto che la via per arrivare al cuore di un uomo spesso ne attraversa lo stomaco. Perciò invitò il re e Aman ad un pranzo. Durante il banchetto, il re le chiese di nuovo: «Qual è la tua richiesta?» «La esaudirò». Esther si mosse con cautela, passo dopo passo, aspettando la guida di Dio. Nel suo cuore sentiva di dover ancora guadagnare tempo. Fino allora non era il momento di Dio. «Tornate nuovamente domani», disse agli ospiti e poi ebbe la prova che Dio l'aveva guidata in questo. Quella notte il re non poté dormire, quindi domandò che gli fosse letto il libro delle cronache del popolo persiano e così alcuni fatti importanti rimasti all'oscuro vennero alla luce. Dunque, i pezzi del puzzle dei piani di Dio andarono al loro giusto posto. Dalla lettura risultò che, qualche tempo prima, Mardocheo aveva sventato una congiura contro il re, salvandogli la vita, ma senza riceverne alcuna ricompensa. Bisognava rimediare di conseguenza questa negligenza. E fu proprio Haman, l'uomo che, giusto il giorno precedente, aveva eretto vicino alla propria casa una forca alta più di 30 metri, con l'intenzione di impiccarvi Mardocheo, a ricevere l'ordine di ricompensarlo. Il giorno dopo, durante il banchetto, Ester fece la sua richiesta. Fu toccante il modo in cui supplicò il re per la vita del suo popolo e per la sua. «Se fossimo stati venduti come schiavi, avrei taciuto», confessò. Del resto, non era solo preoccupata per la sopravvivenza degli ebrei, ma anche per le gravi conseguenze che lo sterminio avrebbe avuto per il resto del popolo e per il re stesso. Decisamente peggiore della perdita dei suoi servi era la reazione di odio a catena che avrebbero rivolto contro di Israele, e il suo silenzio avrebbe manifestato il suo schierarsi contro Dio stesso. Dio aveva chiamato questo popolo la pupilla del suo occhio, promettendo di proteggerlo e guardarlo. Nessuno poteva far loro del male senza incorrere nella ira divina. Neppure un re. Ester voleva evitare questo pericolo, che il suo intuito maggiore di quello del re le permetteva di scorgere. Essa riuscì a convincerlo. Chi è, e dove, è l'uomo che presumerebbe in cuor suo di fare una tal cosa? Fu la richiesta scioccante del re. Il dito di Ester indicò Haman, un minuto altro. Ospite, la persona più rispettata, dopo il re. Quell'uomo malvagio, Haman, replicò Ester. Poi tutto venne alla luce, anche la forca eretta vicina alla casa di Haman, che aspettava l'esecuzione di Mardocheo. Ma il re cambiò questo progetto. Impiccate su quella forca Haman stesso, ordinò, e così fu fatto. La moglie di Haman e i suoi amici saggi avevano avuto ragione nel dire: se questo Mardocheo è un ebreo, tu non puoi prevalere contro di lui. Al contrario, cadrai davanti a lui. Sarebbe stato saggio per Haman imparare dalla storia degli Amalechiti, suoi antenati, che Dio era contro di loro a causa della loro avversione nei confronti di Israele, il suo popolo. Haman constatò che l'odio è un'emozione molto pericolosa, la quale, di solito, si rivolge contro colui che la nutre. Ester aveva salvato non soltanto la sua vita, ma quella di tutta la sua razza. Il Nuovo Testamento dice che i cristiani dovrebbero essere una luce in questo mondo, dovrebbero essere come delle stelle brillanti nella notte. Filippesi 2:15. Ester è una stella. Questo, del resto, è il significato del suo nome. Gli ordini precedentemente disposti da suo marito per la distruzione degli ebrei erano tanto potenti che non potevano semplicemente venire revocati. Era necessario una disposizione contraria. Scrivete ciò che volete circa gli ebrei, disse il re. Io firmerò e suggellerò con il mio anello. L'eroina che aveva salvato gli ebrei rischiando la sua stessa vita ebbe ora il privilegio di dar loro questa meravigliosa notizia. Invece di essere una donna nell'ombra, era diventata importante. Le sue parole avrebbero avuto molto peso. Da allora in poi, la buona notizia arrivò prima della data in cui sarebbe dovuto avvenire il grande massacro. Fu Dio a pensarci. La data che sul taccuino di Haman era segnata come di dolore fu un giorno di gioia. Molti non ebrei vollero entrare a far parte della comunità di Israele, tanto restarono grandemente impressionati dall'accaduto. Volevano essere dalla parte di Dio. Il giorno di gioia divenne un dì da commemorare. Fu istituita la festa di Purim. Con questa festa, a tutt'oggi, gli ebrei di tutto il mondo ricordano ciò che la regina Ester fece per loro. Ogni anno, quando viene celebrato il Purim, gli ebrei leggono il libro di Ester. Essa è molto rispettata. Pare che qualcuno valorizzi questo libro al di sopra dei salmi e dei profeti. 30 anni dopo, Neemia avrebbe ricostruito le mura di Gerusalemme. Senza la regina Ester, ciò sarebbe stato impossibile. E, Facile immaginare il corso della storia senza di lei. Umanamente parlando, se non ci fosse stata la regina Esther, non ci sarebbe stata la nazione ebraica, e senza la nazione ebraica non ci sarebbe stato il Messia. E senza il Messia il mondo sarebbe perduto. Esther, senza saperlo, preparò la strada per la venuta di Cristo. Attraverso di lei Dio aveva anche indicato di essere disposto a guidare i suoi seguaci nel prendere delle decisioni. La guida del Signore si deve cercare nella sua parola e attraverso la preghiera. Sono importanti anche il consiglio degli altri, Prov 15 e 22, una convinzione interiore, 1 Giov 3 e 21, e le circostanze, cioè le porte aperte da Dio, Apoc 2, 7, 8. Studio facente parte di una serie di trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti.